Comincio da una domanda difficile. Prego, Posso? prego, prego. Cosa ha bevuto ieri sera per brindare? È meglio non dirlo, non diamo esempi negativi in Ma radio. come no? Ma come no? Cioè, avrà bevuto un Lambrusco, Lambrusco parmigiano. Lambrusco parmigiano, mi sembra la scelta migliore. Stavo dicendo prima che l'Inter non è più provinciale spensierata, se no Stramaccioni si arrabbia. Viene a Parma. Gioco una partita che definirei invece presuntuosa, così magari Stramaccioni si offende anche di più, e un bel Parma la stende. Noi dobbiamo fare la miglior partita dell'anno e trovare un avversario che non faccia altrettanto. Sicuramente l'Inter non ha fatto la migliore partita dell'anno, però credo che i meriti del Parma non siano da sottovalutare perché abbiamo pressato molto bene, siamo stati attenti, abbiamo Sicuro. aspettato il loro errore e sicuramente abbiamo messo molta determinazione, molta grinta e siamo riusciti a fare una grande prestazione. Cosa le ha dato più soddisfazione? Magari il gol di questo ragazzino, che si sente italiano anche se è nato a Monaco? Ma guardi, queste sono delle intuizioni che fa il nostro direttore, che fa insieme a tutti i suoi collaboratori, da grande soddisfazione perché alle spalle ci sono dei progetti, l'abbiamo preso 2 anni fa, l'abbiamo mandato un anno a Crotone a fare esperienza e adesso ha già fatto 2 gol con 3 presenze, è stato convocato in Under 21 e oltre a lui ce ne sono altri che provengono sia dal vivaio e sia da scommesse vinte, pur essendo molto giovani, perciò sono contento per la classifica perché quella è Vabbè, ci importante mancherebbe altro, siete lì davanti, 20 e punti davanti al Milan. sono contento per tutto il nostro movimento, per tutti i nostri tifosi, per tutta la nostra gente.